Bene, Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15 e per saperne di più la scaletta di quest'oggi la trovate sul sito internet della Radio Onda Rossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Oggi parleremo di film e documentari in uscita in sala e di un festival in quel di Milano e poi di di un progetto, la prima scuola di Zalab, e poi di un'iniziativa al Teatro Valle Occupato per martedì prossimo con un film su Simone Weil e poi altri documentari. Le uscite in sala di oggi, giovedì 31 ottobre, le nostre indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo settimanale e poi gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia tra festival, rassegne e proiezioni. Il link per riascoltare la puntata della scorsa settimana e anche l'archivio del 2013 e del 2012. Le informazioni le trovate anche sulla pagina Facebook di Visionari e poi l'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi, che è visionari@ondarossa.info. Di nuovo troviamo con noi Adriano Zecchi, regista dei documentari Cici Galpa e Maritza. Adriano, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Bene, un piacere, ciao e grazie. Allora, mi sono arrivate queste informazioni sui tuoi lavori, sui trailer riguardanti questi ultimi due lavori. Dici un po' di cosa si tratta. Ma guarda, sono due documentari, diciamo il primo Maritza, che ho recentemente proprio terminato in questi ultimi giorni. E Maritza è la storia si svolge appunto a Managua, che è la capitale del Nicaragua, è la storia di una donna che è madre di sette figli, che per mantenere appunto tutti questi figlioli è costretta a fare uno dei lavori più brutti e anche pericolosi, che si chiama Lippe Penadora, che sarebbe praticamente che raccoglie tra i rifiuti delle discariche, che ce ne sono in grande quantità a Managua, in uno dei quartieri più poveri, tutti i giorni cerca di trovare qualcosa da poter vendere, plastica, vetro e addirittura trova anche da mangiare, cioè dei resti che vengono dai ristoranti e che buttano lì, e quindi lei raccoglie e porta a casa per poter così dar da mangiare a tutti questi figli, che sono veramente tanti, sono sette. Tra l'altro è una storia anche molto molto triste, nel senso che uno, che era il maggiore, 3 anni fa è rimasto ucciso in una sparatoria di tra bande lì nel quartiere, e quindi gliel'hanno ammazzato. Però il documentario fa vedere come anche una donna così coraggiosa, anche con molto ottimismo, fiducia, e quindi insomma abbiamo vissuto qualche giorno con lei, con la famiglia, in mezzo a tutti questi bambini. Insomma, racconto un po' la storia che purtroppo di questo tipo ce ne sono tante, insomma, in Latino America. Ecco, questo a grandi linee, insomma. Come sei incappato in questa storia, Adriano? Ma è che io avevo diciamo in internet, avevo visto che c'era questo, di un giornalista che conoscevo, che mi aveva mandato un articolo di dove lui aveva appunto raccontato un po' la storia, ha fatto un servizio su questa Maritza, e allora la cosa mi ha appassionato, perché conosco abbastanza quelle realtà e insomma mi sono messo in contatto attraverso di lui, e quindi ho potuto poi documentare questa storia di Maritza. Ecco, è avvenuto così. Senti, come dicevi prima, è una storia abbastanza diffusa, ecco, che in realtà si sta vivendo? Ma lì a Managua, come io tra l'altro sono arrivato in Nicaragua, diciamo, mi hanno chiesto di fare un lavoro, una ONG italiana che con un progetto cofinanziato dalla Comunità Europea appunto dovevano fare, portano avanti questo progetto già da 2 anni, e ci vogliono 4 anni in totale, sul il problema della spazzatura. Cioè praticamente eliminare queste discariche, insegnare fin dai ragazzi l'organico, inorganico, il riciclo, e quindi io ho fatto un documentario per loro su questa realtà, e naturalmente toccando con mano quella realtà lì ho potuto anche così a maggior ragione entrare in questa storia di Maritza, no? Che come ti dico lì, come un po' in tutti i paesi, insomma, in Latino America e non solo lì, ma sai, si butta tutto per strada, e quindi si nascono ogni giorno discariche abusive, insomma è un po' un disastro, no? E quindi quello era un progetto molto, è un progetto molto interessante e importante, ecco, e quindi ho fatto questo. Poi invece, se vuoi, ti racconto un attimo dell'altro lavoro. Certo, certo, arriviamo all'altro. L'altro lavoro che diciamo è molto diverso ed è veramente drammatico, trovo io, perché io conoscevo un po' questa realtà, però diciamo da lontano, no? Non avevo mai avuto la possibilità di entrare un po' in questa situazione che ti spiego. Praticamente Cicigalpa è una cittadina a nord di Managua, una piccola cittadina che praticamente sarebbe, come dire, non esisterebbe assolutamente se non, perché non ha nessuna importanza, se non per il fatto che lì ci sono le piantagioni di canna da zucchero più grosse, più importanti del paese, e queste piantagioni di canna da zucchero sono di proprietà di una famiglia Pellas, che sono italiani, cioè figli di italiani di Genova originari, e sono i più diciamo i più ricchi e poderosi del paese, perché non hanno soltanto queste piantagioni, ma hanno le mani nelle banche, nelle automobili, nella finanza, insomma in generale sono i più ricchi, no? Dominano il paese economicamente. E lì cosa è successo? Che già da anni hanno buttato proprio indiscriminatamente nelle piantagioni pesticidi di tutti i tipi, dei veleni veri e propri, e che hanno contaminato l'acqua avvelenata, e quindi anche i pozzi, i fiumi, dove la povera gente, non solo quelli che lavorano lì, ma anche tutti quelli che vivono nelle loro baracche intorno a queste piantagioni, si sono praticamente avvelenati, quindi sono stati tutti colpiti da infezione renale cronica, e sono morti già a migliaia, si parla di 4-5 mila morti e altrettanti, 7 mila malati di infezione renale, destinati a morire perché praticamente non hanno possibilità di cure. Anche perché cosa succede? Il documentario fa vedere, attraverso una serie di interviste di questi malati, che testimoniano una realtà drammatica, nel senso che tremenda, appena trovano che sono malati vengono immediatamente licenziati e non hanno né una pensione né una mutua, diciamo, no? Una, sì. E quindi destinati a morire, e le famiglie anche senza nessuna possibilità di andare avanti, insomma, e quindi la situazione è tremenda. E quindi ho documentato questa realtà, e poi molti di questi si sono trasferiti da 4 anni a Managua, a un centinaio di metri proprio dall'edificio dell'impresa, cioè del gruppo Pellas, per manifestare, perché loro chiedono giustamente, come minimo, un indennizzo che gli permetta di potersi in qualche modo curare anche e mantenere le famiglie. Sì, e sì. Quindi sono accampati in tende da 4 anni e non sono mai riusciti ad avere un incontro, capisci, da questo, perché la politica del gruppo Pellas è quello di non riconoscere nulla, perché nel momento che dovesse riconoscere che hanno ragione ad avere un indennizzo, è come dire che insomma loro hanno avvelenato l'acqua, mentre loro dicono che non c'entrano nulla. Infatti quello che veramente mi ha catturato, diciamo, come interesse è che loro tutti quanti parlano di una malattia misteriosa, no? Ma di misterioso sai bene che oggi non c'è nulla, insomma, scientificamente si può voglio dire arrivare alle cause, e quindi sono lì purtroppo in una situazione tremenda, e io spero, almeno il mio scopo è quello, attraverso il documentario, di far conoscere che, come ti dico, se ne è parlato, ma purtroppo sai i problemi sono tanti e va tutto un po' nel dimenticatoio. Io credo che invece bisognerebbe, soprattutto su queste situazioni così ingiuste, insomma, conoscere perlomeno, essere informati, ecco. Sì. Allora, stiamo parlando, per chi ci ascolta, di Mariza e Cicigalpa, due documentari di Adriano Zecca. Ecco, per saperne di più su questa situazione in rete, è possibile trovare notizie da in qualche sito? Sì, io guarda, purtroppo ho un rammarico, e te lo dico perché poi è una cosa così fresca che lo sento veramente. Io da 15 anni collaboro con la RAI, no? Ti ricordi che anche l'ultima intervista, quelle che ho fatto sulla Bolivia, erano per Geo e Geo? Sì, 15 sì. Anni che praticamente tutti i miei lavori dalla televisione svizzera, e poi la Geo me li ha tutti acquistati e trasmessi con veramente un buon risultato anche. E invece questo niente, mi ha detto che non è che la linea è cambiata e che sono dispiaciuti, ma che oramai non si tratta più di argomenti sociali. Questa è un po' la realtà italiana, purtroppo, sì. E quindi non è una questione bello o non bello, ma il problema sociale oramai è evitato, e quindi niente, perciò sono molto spiazzato e rammaricato, perché io speravo di poter far conoscere. Ora non ho perso tutte le speranze, nel senso che mi sto dando da fare per vedere di trovare altre possibilità, no? Però la realtà è purtroppo molto, sì, molto brutta, sì, quindi sì. Non so, in rete io sì, cercherò eventualmente di mettere anche i documentari. Tu hai però un tuo sito di riferimento? Sì, io ho un sito che appunto è www.adrianozecca.it, e lì io vedrò di se non riesco a nessun altro modo, almeno di metterli in rete, perché trovo che credo che sia molto importante che, certo, appunto si conoscono queste realtà, ecco. Adriano, allora tu facci sapere, noi siamo sempre attenti, e nel frattempo un abbraccio e a risentirci presto. Grazie e speriamo presto di avere buone notizie, allora. Bene. Ciao Adriano. Buon lavoro, a presto. Ciao Federico, ciao. Adriano Zecca, regista dei documentari Cicigalpa e Mariza. Parliamo adesso di un progetto di Zalab, la prima scuola. Ne parliamo con Michele Aiello. Michele, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buonasera, grazie dell'invito. Sì, mi interessava molto questo progetto, parliamone con te, Michele. Sì, di fatto è un progetto che è partito insieme al film di Andrea Segre, La prima neve, che adesso è nei cinema, e quindi è gestito da Zalab, ma vive anche soprattutto al sostegno di Iole Film, la produzione. E è un progetto che è nato durante le riprese del film ed è dedicato alle scuole primarie e anche all'ultimo anno della scuola d'infanzia, e sostanzialmente è una raccolta fondi che ha l'obiettivo di finanziare i laboratori artistici o pedagogici nelle scuole elementari, e alla chiusura della raccolta fondi c'è una commissione che, oltre al fatto che sta elaborando una specie di bando, chiamiamolo bando, però insomma, è più una modalità di partecipazione, e poi selezionerà le proposte che riceviamo e deciderà che tipo di aiuto, finanziamento dare per far parte dei laboratori l'anno prossimo, da settembre 2014. Più o meno i laboratori cosa, come li avete pensati? Allora, noi la commissione è formata da tutte personalità coinvolte nel mondo della pedagogia e molto vicine un po' al pensiero del movimento di cooperazione educativa, quindi devono essere laboratori che coinvolgono il bambino, che fanno produrre i materiali del laboratorio al bambino, che tengono in considerazione anche l'individualità di ognuno e l'elaborazione anche dei contenuti, cioè quindi il bambino deve essere messo al centro del laboratorio, non deve essere una cosa che l'adulto impone o in maniera frontale o in maniera dall'alto, quindi speriamo, insomma, abbiamo già attivato un po' di contatti anche con gli insegnanti, ci sembra che ci sia molta condivisione anche nel mondo degli insegnanti su questa cosa qui. Sì. Senti, per quanto riguarda l'immagine e l'educazione all'immagine, è previsto qualcosa in questo senso? Intendi nel senso del video? Sì. No, la libertà è totalmente aperta, si possono proporre qualsiasi tipo di laboratorio, anche pedagogico. Per esempio, eravamo venuti a conoscenza della pedagogia del cielo organizzata dall'MCE, da Nicoletta Lanciano, e anche se non è un laboratorio artistico ed è pedagogico sullo studio dell'astronomia per i bambini, vanno benissimo qualsiasi tipo di laboratorio pedagogico. Senti, per quanto riguarda il territorio nazionale, dove vi siete indirizzati? In teoria è aperto a tutto il territorio, è evidente che abbiamo cercato di formare una commissione che rappresentasse un po' il territorio, quindi c'è Sara Onegger da Milano, Marco Paolini per la zona del Veneto, Franco Lorenzoni a zona Umbra, e insieme a Goffredo Fofi anche, e poi c'è Vinicio Ungini che è del Ministero e quindi però sta a Roma, e Peppe Carini da Napoli. Quindi speriamo, insomma, data l'estrazione territoriale, che anche venga rappresentato anche un po' tutta la penisola. Senti, e per avere maggiori informazioni, qualche riferimento ce lo dai? Sì, si può scrivere alla primascuola@zalav.org oppure andare sul sito laprimascuola.wordpress.com. Bene, bene. Io sono sempre io che faccio il responsabile e cerco di rispondere un po' a tutti. La cosa interessante anche è che pubblichiamo sul blog dei contributi da parte di insegnanti e genitori che vogliono raccontare le loro esperienze, e da sul blog sono arrivati un bel po', quindi è anche interessante questa forma di coinvolgimento di chi è impegnato, perché ovviamente noi abbiamo un'esperienza più su un aspetto sull'aspetto del cinema, del documentario, e quindi la porta è aperta, certo, a tutti quelli coinvolti nel mondo della pedagogia. Certo. Michele, a questo punto seguiremo l'evoluzione di questo progetto e ci terremo informati. Sì, se posso dare un annuncio, il 7 dicembre al nuovo Cinema Palazzo stiamo organizzando insieme a Ragazzi del Cinema una giornata dedicata alla pedagogia, all'istruzione, al dibattito, e la mattina ci saranno anche dei laboratori per bambini e alla sera ci sarà la proiezione del film con dibattito alla presenza di Andrea Segre, che è il regista. Benissimo. Allora io ti abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille dello spazio. Arrivederci. Ciao Michele. Michele Aiello di Zalab per il progetto La Prima Scuola. Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15. Parliamo adesso di film in uscita oggi giovedì 31 ottobre. Zoran, il mio nipote scemo, ne parliamo con il regista Matteo Leotto. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno a tutti, ciao. Allora, presentato alla Settimana Internazionale della Critica, la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, una buona accoglienza, oggi in sala. Raccontiamo un po' intanto di cosa si parla, Matteo, per chi ci ascolta. È una commedia dei cieli grigi, come mi piace definirla. È un film che abbiamo girato tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, una coproduzione tra Italia e Slovenia. Però appunto è una commedia, quindi insomma è un film per tutti, che mi piacerebbe insomma che più persone possibili lo vedessero. Senti, come è iniziato il tutto? Il tutto è cominciato 5 anni fa, ho messo insieme un po' di esperienze di vita personale, un po' di personaggi della mia terra che mi sarebbe piaciuto raccontare, e per costruire il personaggio di Paolo interpretato da Giuseppe Battiston. E invece il personaggio, diciamo, del coprotagonista Zoran è un ragazzino, mi sono ispirato a un ragazzino che ho conosciuto tanti anni fa durante una lunga esperienza di lavoro all'interno dell'ex ospedale psichiatrico di Gorizia. Questi due caratteri, un luogo geografico che è la mia terra, una terra che amo molto e ancora per certi versi incontaminata e vergine, e questi sono gli ingredienti, e poi diciamo li abbiamo cucinati a dovere e ad oggi Zoran. Senti, una delle note più simpatiche è anche questa nota di Battiston, che ci tiene a specificare la differenza tra alcolisti e alcolizzati. Assolutamente, assolutamente. È una delle vecchie dispute, diciamo, che ho sentito da quando avevo 10 anni in tutte le osterie. Insomma, c'è un certo punto quando il livello etilico si alza, a livello alcolico si alza, comincia appunto questa famosa discussione se appunto tu sei alcolista, no, tu sei alcolizzato, perché non è meglio essere alcolisti. Poi in realtà le differenze sono assolutamente minime e mi piacciono, e mi piace proprio per questo tipo di frase, perché insomma in osteria, come spesso accade, la gente ha voglia di comunicare, quindi sta le ore a parlare su qualcosa che magari nemmeno conosce bene, insomma. Ecco, una piccola comunità vissuta anche, è stata anche una tua esperienza personale, quindi continuano a esistere nel territorio queste micro comunità? Assolutamente sì, ci sono presenti, sono diciamo i luoghi che più mi piacciono, e sono comunità dove insomma al loro interno c'è di tutto, insomma, per quanto piccole insomma si può trovare diciamo una combinazione interessante di colori e sfumature di esseri umani, insomma, di umanità. Mm-hmm. Per cui io le adoro. Senti, per quanto riguarda ecco la realtà che stiamo vivendo rispetto alla fuga dei giovani al lavoro, come si vive lì in quella realtà territoriale? Ma guarda, secondo me c'è ancora un bello spirito di ci si aiuta molto. Mm-hmm. Nel senso che poi c'è l'amico che ha una piccola impresa e quindi magari qualche ora te la fa fare, c'è qualcuno che ha bisogno di ridipingere una staccionata e quindi te la fa fare, c'è qualcuno che ha bisogno di tagliare l'erba, c'è qualcuno che insomma secondo me diciamo la crisi non è arrivata ancora così violenta, e credo che non arriverà mai così violenta, anche perché in ballo poi c'è la terra. Mm-hmm. La terra da mangiare mette una sorta di serenità un po' a tutti, insomma, anche a quelli che sono completamente senza soldi, che però magari appunto hanno un pezzo di giardino, un pezzo di terra da cui si coltivano le verdure che uno si mangia. Quindi insomma secondo me è ancora in una fase di studio, fortunatamente, la crisi lì. Insomma, io a Roma, che faccio un po' su e giù, la vedo molto più violenta, molto più esposta, diciamo, la crisi. Sì. Senti Matteo, ecco, siamo in un luogo di confine tra Italia e Slovenia, come è vissuto questo confine? Ma diciamo dipende un po' dalle persone. Dal mio punto di vista io sono assolutamente diciamo contento che finalmente questi maledetti confini non ci siano più, e nel film ho provato proprio a raccontare questo, proprio a raccontare un territorio geografico nuovo, insomma, che fa parte nella mia testa, nella mia anima, è un tutt'uno, ma in realtà è insomma da una parte c'è l'Italia e dall'altra parte c'è la Slovenia. Poi sai, come in tutte le zone di confine ci sono molta gente che non ha ancora accettato che dall'altra parte ci sia il diverso, e poi c'è tanta gente come me, insomma, che considera la diversità una ricchezza, per cui insomma dal giorno che ho deciso di fare un film mi sembrava ovvio dover collaborare e crescere insieme insomma a un gruppo di persone che culturalmente sono diverse, ma appunto diverse, e quindi insomma persone con cui scambiare, con cui arricchirsi. Mm-hmm. Matteo, sulla caratterizzazione di Battiston su cosa ti sei basato? Come l'hai messo su questo personaggio? Ma mi sono basato appunto lavorando con diciamo di ricordi di tantissime persone che ho incontrato nelle mille osterie che ho frequentato. Insomma, Battiston è appunto un giusto mix diciamo, di questi esseri meravigliosi, di questi esseri vinti che ogni mattina si alzano appunto con la speranza di riuscire a trovare qualcosa che li traghetti verso una vita nuova, diciamo, con la V maiuscola. E in questo loro dimenarsi spesso appunto sono goffi, sono brutti, però allo stesso tempo a mio avviso possono essere anche molto poetici, molto dolci, insomma questo è quello un po' a cui mi sono ispirato per il personaggio di Paolo. Quindi una realtà un po' più rispetto al personaggio, allargata proprio alla realtà delle osterie, insomma dei frequentatori di questi posti che si bevono un bicchiere, più di un bicchiere, insomma. Assolutamente. Matteo, da oggi nelle sale quante copie? Da oggi nelle sale siamo usciti in 4 cinema qui a Roma, in 2 cinema a Milano e in tutto il Friuli Venezia Giulia. Poi dal 7 di novembre usciremo ancora con una quindicina di copie, dal 14 di novembre ancora con una ventina di copie su tutta Italia. Insomma, una strategia distributiva interessante, perché essendo film piccoli hanno bisogno di tempo, perché l'unico modo che abbiamo noi perché la gente vada al cinema è il passaparola, e quindi appunto mi piace dire alla gente che vada al cinema, e se il film appunto dovesse mai piacergli di comunicarlo a tutto il mondo, e se per qualsiasi motivo il film non dovesse piacere, chiedo di farsi gli affari propri e di fare finta che non sono mai andati al cinema, diciamo. Bene, se non fosse altro per la curiosità di vedere come nelle città, per esempio, da qualche tempo a questa parte è diventato di moda l'aperitivo, mentre lì in queste piccole comunità c'è ancora l'osteria con tutto quello che rappresenta. Certo, assolutamente. Matteo, io ti abbraccio, a risentirci presto. Grazie, anch'io, grazie. Ciao. Matteo Leotto, regista di Zoran, in uscita in sala oggi, giovedì 31 ottobre. Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15. Sul sito internet della radio trovate tutte le informazioni alla voce trasmissioni Visionari, o anche sulla pagina Facebook di Visionari, e poi l'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi: visionari@ondarossa.info. In collegamento con Ruggero Di Paola di High Moon Pictures sulla distribuzione di Miss Violence, in uscita in sala oggi giovedì 31 ottobre. Ruggero, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, benvenuto a te, benvenuti a tutti. Allora, un film a dir poco inquietante, e c'è tutto il campionario del peggio dell'uomo, dal maschilismo all'induzione alla prostituzione minorile, allo sfruttamento di questa, alla violenza domestica, al patriarcato, insomma tutto concentrato in un film, Ruggero. Ma guarda, in effetti si dice anche troppo del film, nel senso che io quando l'ho visto a Venezia, parlo proprio, intendo, della trama, non solo dei temi che tocca il film, quando l'ho visto a Venezia non sapevo nulla se non dell'inizio, e quindi della storia incentrata su questa ragazzina che aveva 11 anni e il giorno del suo compleanno decideva di lanciarsi nel vuoto, però sorridendo, e quindi assolutamente non apparentemente non depressa, e quando ho visto il film in effetti mi ha sorpreso, ma non tanto per la tematica, perché poi alla fine queste tematiche si leggono anche spesso sui giornali, e il film stesso è ispirato a un evento di cronaca, quindi è basato su una storia realmente accaduta in Germania, ma per l'evoluzione, quindi anche per la suspense che lentamente cresce e monta fino ad arrivare alla fine, perché tutto è basato su questo segreto inconfessabile che la ragazzina porta con sé, decidendo di togliersi la vita. Infatti apparentemente all'inizio del film, quando la polizia e i servizi sociali cercano di scoprire il motivo del gesto, la famiglia di Angelichi nega l'accaduto, continua a ripetere che si è trattato di un incidente, e tutto ruota attorno a questa trama. In effetti si sanno molte cose, si è detto che il film è scioccante, il film rivelazione, il film shock del Festival di Venezia. Noi l'abbiamo preso perché innanzitutto è un bellissimo film, certo. E secondo noi era corretto, era giusto dare la possibilità al pubblico italiano, agli spettatori italiani di poterlo vedere in sala. Allora, Leone d'Argento alla Mostra del Cinema di Venezia, un film greco, e nonostante insomma della Grecia ci arrivino per lo più notizie sulla crisi di Vampante, questa parla invece proprio nello specifico, più che allargare il discorso, sembra un attacco all'istituto della famiglia. Sì, poi questa è anche una dichiarazione fatta dallo stesso regista, che non crede più alla famiglia, perlomeno come è stata l'istituzione famiglia, per come è stata strutturata e concepita nel corso degli anni. Dicevi del film che ha vinto il Leone d'Argento. In effetti ha vinto il Leone d'Argento per la migliore regia, ma ha vinto anche la Coppa Volpi come miglior attore all'unanimità. Infatti l'interprete di questo personaggio, del nonno, è effettivamente stato straordinario. Poi ha vinto altri due premi minori, il premio Arca e il premio Fedeora, sempre a Venezia. Tra l'altro, se non ricordo male, lui è di estrazione teatrale. Ecco, volevo sapere anche l'accoglienza nel resto del mondo di questo lavoro. Ma guarda, direi ottima, nel senso, in Italia lo abbiamo acquistato per primi, però il film è stato venduto in oltre 10 paesi, è stato venduto in Inghilterra, in Russia, in Sud America l'ha comprato HBO, in Svezia, in Corea, in Spagna, e il film uscirà il 31 ottobre in Italia in anteprima mondiale, quindi uscirà prima del territorio di origine, proprio perché anche considerato che insomma il premio che aveva vinto il Leone d'Argento in Italia, quindi ha accettato questa concessione, e quindi è il primo territorio dove inizierà lo sfruttamento. E a Roma ricordo che il film uscirà al cinema Mignon, al cinema Giulio Cesare e al cinema Madison. Ecco, prima dicevi che per la scelta siete partiti soprattutto dal fatto che è un ottimo film. Ecco, quali sono le cose che vi hanno convinto rispetto al pubblico italiano a che possa essere insomma recepito questo messaggio, questa lettura di una realtà come quella familiare? Ma guarda, innanzitutto tratta appunto dell'istituzione familiare, di quello che può accadere dentro una famiglia. Sì. È un argomento relazionato al femminicidio, e alla violenza domestica, assolutamente attuale. Sì, sì, sì. E poi, come ti dicevo, una cosa che molto spesso è venuto fuori, di più il fatto che sia un film scioccante, ma per esempio pochi hanno parlato delle qualità registiche di Avranas, perché per esempio spesso dicono ma c'è la macchina fissa, viene ripreso con distacco. In realtà ci sono più di un piano sequenza e ce n'è uno addirittura di 9 minuti, ma nessuno se n'è accorto, quindi evidentemente se n'è invece accorto molto bene sia Bertolucci che Sakamoto, che hanno premiato la migliore regia. Talmente era orchestrato bene. Tu sai bene che fare un piano sequenza da 9 minuti non è assolutamente semplice, e senza senza mostrare la macchina. Quindi il film, anche tecnicamente, fotograficamente, come tensione, è assolutamente eccezionale. Quindi per questo motivo, al di là delle tematiche trattate, noi lo abbiamo scelto. Ruggero, il regista è un autore che seguivate da tempo? No, noi lo abbiamo conosciuto a Venezia, abbiamo conosciuto Alexandros e tutto il cast a Venezia il giorno della prima mondiale del film. Bene, allora, da oggi nelle sale in quante copie, Ruggero? Allora, inizialmente uscirà in una ventina di copie e poi la prossima settimana contiamo di aumentarle. Benissimo. Allora io ti abbraccio, a risentirci per le prossime novità. Grazie, un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao Ruggero. Ruggero Di Paola di Aimun Pictures sulla distribuzione del film Miss Violence, in uscita oggi giovedì 31 ottobre. È con noi Enrico Menduni, supervisore artistico del documentario Profezia, l'Africa di Pasolini, in uscita in sala a partire dal 2 novembre. Enrico, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno. Allora, se non sbaglio, presentato a Venezia, di cosa si tratta? Cos'è Profezia? Ma dunque, il nucleo di questo documentario è duplice. Da una parte il carattere profetico di alcune affermazioni, soprattutto in poesia, di Pasolini, che sembra avere previsto, diciamo, la conquista dell'Europa da parte degli africani, diciamo, intendendo gli africani come una sorta di ambasciatori del terzo mondo nel mondo civilizzato, e quindi in particolare la poesia lì dagli occhi azzurri, questo sbarco degli africani su barconi, navi, insomma tutta una serie di attrezzi nautici, fino a luoghi che sono addirittura citati, Palmi, Crotone, eccetera, è descritto con una vivacità che fa un po' una preveggenza che fa accapponare la pelle. Dall'altra parte c'è la questione, diciamo, più politica di un Pasolini che all'inizio degli anni 60 è deluso dalle borgate romane, in cui lui aveva pensato di trovare il soggetto rivoluzionario, o se si preferisce anche una purezza primigenia che si era perduta col capitalismo, e poi rimane deluso dall'avanzare, appunto, della speculazione edilizia, del neocapitalismo, della società del benessere, in cui poi i proletari si borghesizzano e i borghesi si proletarizzano. Mm-hmm. Quindi lui nel corso del decennio degli anni 60 andrà a cercare questo soggetto e questa purezza nei paesi del terzo mondo, in particolare l'Africa e l'India. Noi abbiamo scelto l'Africa perché nell'India c'è sempre anche una vena mistica che invece non c'è nelle sue frequentazioni africane. Mm-hmm. Poi purtroppo anche questa speranza crollerà, e gli ultimi anni della sua vita sono proprio anni disperati, anni senza speranza. Mm-hmm. L'idea portante che vi ha spinto a questo lavoro, e poi da cosa avete preso le mosse, Enrico? Ma dunque, questa è una domanda che andrebbe poi posta in primo luogo allo sceneggiatore del film, e quello che ha avuto l'idea, cioè Gianni Borgna. Sostanzialmente ci sono due testi pasoliniani che risultano molto utili per questa ricostruzione. La prima è un suo film su un film da farsi. Questo suo film è Appunti per un'Orestiade africana. Lui non riuscì poi a ambientare l'Orestiade in Africa, però riuscì a fare un documentario sul possibile svolgimento di questo film in questa location africana. E questo è uno, quindi noi abbiamo attinto grande materiale di immagini da questo film, e anche le idee di Pasolini ci sono iscritte in maniera molto forte. Mm-hmm. E in secondo luogo, nel 1963 Pasolini fece un film molto sfortunato che si chiamò La rabbia, e che era un documentario di montaggio che poi lui fu costretto ad alternare con un altro documentario di pari titolo fatto da un giornalista di estrema destra, che era Giovanni Guareschi, quello di Don Camillo, ma insomma uno che scriveva per il Borghese, quindi portatore di idee razziste molto forti. E lui fu costretto ad accettare questa convivenza, che naturalmente condannò il film a essere ignorato anche dalla bibliografia pasoliniana, sostanzialmente. Poi è stato recuperato a cura di Giuseppe Bertolucci, a cui noi abbiamo voluto dedicare questo film, e restaurato dalla Cineteca di Bologna, E insomma, la parte di Pasolini è molto bella, è una riflessione sui mali del capitalismo come potevano apparire nel 1963, quindi soprattutto del colonialismo prima che del capitalismo, diciamo così. E insomma, noi abbiamo preso questo testo, l'abbiamo utilizzato largamente. Come avete strutturato il lavoro, le riprese? Ma dunque, le riprese non sono molte, perché noi siamo, diciamo, siamo andati a girare in Marocco, sui luoghi dove Pasolini aveva ambientato Edipo Re, e poi abbiamo girato nelle periferie di Roma, in particolare al Pigneto. Tra l'altro il film adesso è in programmazione dal 2 novembre proprio al Cinema Nuovo Aquila del Pigneto. Sì. Per vari motivi. La prima è che Pasolini aveva sempre detto che la sua Africa cominciava nelle periferie di Roma. E in secondo luogo perché per una strana legge del contrappasso, dove prima c'erano i sottoproletari dei film di Pasolini, adesso ci sono tanti extracomunitari e c'è una strana convivenza molto precaria tra queste migliaia di extracomunitari e alcuni giovani di tendenza che si sono fatti la casa al Pigneto. Quindi è abbastanza singolare che questi luoghi, come era una testimonianza negli anni 60 del sottosviluppo e della mancata integrazione, adesso sono un simbolo proprio di questa invasione dell'Europa da parte degli extracomunitari. Quindi queste sono le scene che noi abbiamo girato, e poi ci siamo avvalsi moltissimo di pezzi di telegiornale, di pezzi di documentari in cui si testimonia che fine hanno fatto gli ideali e le speranze che animavano Pasolini negli anni 60 a proposito del terzo mondo, e quindi ci abbiamo messo le immagini della primavera islamica, ci abbiamo messo le foto di Tunisi, abbiamo messo le sequenze della cattura di Gheddafi. Ecco, abbiamo cercato di far capire che fine ha fatto, diciamo, quella tematica. Questo è un po' il nostro scopo, e devo dire che questo risultato ci sta dando grandi soddisfazioni. Ecco, arriviamo adesso invece alla formula di uscita in sala. Ci dicevi del nuovo Cinema Aquila, ma mi sembra insomma delle modalità piuttosto anomale rispetto insomma, a una normale uscita in sala. Ecco, come l'avete pensata e come l'avete poi... Dunque, allora, il produttore, il distributore di questo film è Cinecittà Luce, che è anche molto impegnato nella produzione. Come tutti voi sapete, è difficile portare i documentari in sala, certo, anche con la brillantissima eccezione di Sacro Gra. E quindi questo è un documentario molto di nicchia. Noi ci riteniamo soddisfatti che 14 città italiane, in coincidenza con il 2 novembre, che è poi purtroppo l'anniversario della uccisione di Pasolini a Ostia, programmino questo film. Quindi questo film viene programmato al Cinema Nuovo Aquila con una programmazione con dibattito il 2 novembre, e poi credo per l'intera settimana come un normale film, diciamo, in programmazione al Cinema Aquila. In altre città d'Italia è sempre in programmazione in questa settimana, e con modalità differenti a seconda del luogo. Per esempio, ci sono, ora sto cercando qui se ho un volantino della programmazione, diciamo che brochure cinema, forse è questa, speriamo di trovarla, manco per idea. Ecco, quando cerchi qualche cosa non la trovi mai. Comunque in varie città d'Italia sarà in programmazione questo film per una prossima decina di giorni, insomma. Bene, ecco. Bene. E poi vedremo, ecco, se questa prima programmazione avrà successo, seguiranno probabilmente altre città. Intanto noi abbiamo fatto il DVD, e anche questo sarà diffuso a partire dalla Festa del Cinema di Roma. Insomma, bene, stiamo facendo la notte per stampare questo DVD in tempo. Bene. Enrico, io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci anche presto. A tutti voi, grazie. Resta grazie, un attimo in linea, resta un sì, attimo non in linea. Mi muovo, okay. Non mi muovo. Bene, in collegamento con Fabrizio Ferraro, scusate, regista del documentario Je suis Simon, La condition ouvrière, che sarà programmato all'interno del Cinema Valle, Cinevalle, al Teatro Valle Occupato martedì prossimo 5 novembre. Fabrizio, benvenuto, anzi ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno, ciao ciao. Allora, partiamo da questo tuo lavoro. Per chi ci ascolta, di cosa si parla? Ma è il tracciato dell'esperienza in fabbrica di Simone Weil, quindi dal suo diario, dai suoi quaderni. Il film cerca un po' di attraversare sia i luoghi che le parole che fanno parte di quell'esperienza di Simone Weil. Senti, come hai deciso di farne un film e poi su quali paletti ti sei voluto muovere? Ma fare un film su un testo è sempre una cosa abbastanza difficile, complicata, soprattutto perché poi i termini documentario, finzione saltano, come giusto che sia, proprio perché sono abbastanza restrittive, rischiano anch'esse di essere dei campi, delle circoscrizioni, dei campi di concentramento, come la fabbrica stessa dove Simone Weil va a distruggere il proprio corpo. Quindi la cosa importante ovviamente è quella di aprire proprio gli spazi tra le parole in questo luogo che ancora parlava, perché il film è del 2008, ma ancora adesso che è un quartiere di questi comunque nuovi, contemporanei, ancora c'è una sospensione di dolore, una contraddizione ancora non sanata, ma anzi sempre più viva e vibrante come quella anche di oggi. Allora, la serata si intitola Invocare la bellezza, in ascolto della visione, il cinema di Fabrizio Ferraro. Prima della proiezione ci sarà anche un incontro moderato dai critici Roberto Silvestri e Mariuccia Ciotta, e poi ci sarai tu, il produttore Marcello Faggiani, le attrici protagoniste Claudia Landi e Giovanna Giuliani. Ecco, io rispetto a quanto dicevi, anche leggendo un po' le informazioni sul film, ti volevo chiedere un po' di questa memoria dei luoghi. Ma sì, il cinema dovrebbe, o quando uno decide di fare un film, poi su un testo, su avvenimenti, dovrebbe un po' andare alla ricerca di evocare, di costituire una nuova visione. Cioè la visione ovviamente non ha a che fare con quello che viene visto, anche perché poi quando il cinema, soprattutto in questi casi, ha l'unica possibilità è quella di mostrare il già noto, e è abbastanza noioso, a volte anche imbarazzante per chi guarda. Quindi quando uno ha un rispetto per la gente che viene a vedere il film, cerca di aprire quindi delle contraddizioni, delle maglie in questa cosa. E i luoghi comunque sono luoghi che parlano anche nei loro cambiamenti, nei loro assetti, hanno una memoria viva in cui si respira la storia, il respiro della gente, le sofferenze di quello che è accaduto. L'unica cosa importante però serve riattivare i sensi, perché se non si riattivano i sensi queste cose non si riescono a percepire, se un luogo vale l'altro. Riattivare i sensi a volte costa anche impegno, perché ormai siamo abituati, diciamo, alla distrazione, abbiamo una distrazione continua anche con le nuove tecnologie, sempre connessi, sempre in contatto, ma poi sempre più soli e sempre meno attenti e sempre con i sensi più distratti, quindi non riusciamo a vedere le cose, non riusciamo ad ascoltarle, e allora un minimo di lavoro interessante che vale la pena poi di sobbarcarsi queste fatiche è appunto quello di andare a riscoprire senza appiccicarsi alla storicizzazione esagerata, ma andare a scoprire quello che c'è stato e quello che c'è di nuovo da vedere. Fabrizio, rispetto alla figura di Simone Weil, cosa ti senti più tua di questa figura di intellettuale e militante che ha scelto di calarsi nella condizione operaia per vivere sulla pelle le condizioni di una vita, e qual è l'attualità del suo esempio, del suo percorso? Sì, Simone Weil, leggendo i suoi testi, la sua esperienza, un po' come è un po' un cristallo che riesce a essere anche dura e porosa, anche come la roccia, e è una figura centrale per tutto il passaggio del Novecento, ma anche per quello, anche per questa nuova fase, non so come vogliamo definirla, di transizione o di passaggio. E perché rompe definitivamente con il processo dell'intellettualità. Sai, si dice molte volte in modo dispregiativo, si utilizza il termine intellettuale, una cosa intellettuale, oppure sei intellettuale, ma molto di moda in questi anni, e a mio avviso anche giustamente, perché poi l'approccio è un approccio di separatezza assoluta, come questo mondo, poi come quello che produce anche questo mondo. Simone Weil ha rotto questa cosa, non ci può essere separatezza tra l'oggetto di indagine e la propria esperienza. E quindi con tutti i rischi e i pericoli, perché poi è un'esperienza che ha trasformato la sua vita, l'ha condizionata fino alla morte, però è andato dentro per capire che poi i fantomatici processi rivoluzionari di cui si parlava in quel periodo in modo abbastanza vivo, come si parla anche adesso, non sono così scontati e immediati i momenti di sofferenza dove il corpo piange, ma è il momento in cui il corpo capisce come è presente a se stesso e ha consapevolezza di quello che sta facendo in quel momento. Quindi questo mette un po' in discussione tutta una certa anche filosofia, certi studi operai, e lei li apre in modo formidabile, poi attraversando ogni cosa, attraversando anche la musica, la pittura, sì. E altre cose. Sì. Fabrizio, un'ultima cosa rispetto all'esperienza del Teatro Valle Occupato, ecco, come ci sei venuto a contatto, quali sono le tue impressioni, cosa ne pensi? Oh, guarda, io la situazione conosco poco, cioè la conosco tramite i incontri, il fatto che se ne parla continuamente sui giornali, quindi adesso andrò a vedere, non ci sono passato, poi anche che ho girato gli ultimi film all'estero, e spero che non sia sempre, queste cose sono questioni che possono diventare esplosive, o possono sempre nella difficoltà e nell'assedio possono diventare invece limitanti se poi si circoscrivono. Questo dipende poi da che tipo di rapporti, ma non conosco bene la situazione, infatti sono contento di andare. Bene. Bene, allora ci sarà modo di vederci, di parlarci, di incontrarsi con te, ricordiamolo, al Teatro Valle Occupato, martedì 5 novembre, la proiezione del tuo lavoro, Je suis Simon, la condition ouvrière, l'incontro, come dicevo prima, la proiezione sarà preceduta da un incontro moderato dai critici Roberto Silvestri e Mariuccia Ciotta, e poi dal produttore del film Marcello Faggiani, e dalle attrici protagoniste Claudia Landi e Giovanna Giuliani. Io, Fabrizio, ti ringrazio, un abbraccio, e ci vediamo martedì al Valle Occupato. Va bene, grazie a te, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao. Bene, abbiamo al telefono Sandra Lischi, direttrice della 23esima edizione di InVideo, Video e Cinema Oltre, a Milano dal 30 ottobre, quindi da ieri, fino al 4 novembre. Sandra, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buonasera, ciao. Mi sembra già un dato importante, una edizione numero 23, insomma. Sì, abbiamo resistito a tanti momenti difficili, stiamo resistendo con una programmazione ancora ricca, con tanti autori, tanti artisti, un pubblico affezionato e anche un pubblico ogni volta nuovo, perché vediamo che di anno in anno c'è un interesse crescente verso queste forme sperimentali, anomale, un po' eretiche, che mescolano anche varie arti, quindi anche questo ci dà la forza di continuare a essere attivi e ben svegli. Ecco, anche sviluppando queste parole che hai detto, anche il sottotitolo di Invideo, che è Video e Cinema Oltre, ecco, qual è la caratteristica principale, tu dicevi, di linguaggi sperimentali, commistione anche di linguaggi, di cosa si vedrà, quali saranno i vari linguaggi ospitati in questa 23ª edizione? Allora, quando abbiamo cominciato c'era più, diciamo, un'idea di videoarte classica, quindi era proprio sperimentazione pura con immagine elettronica. Poi le cose si sono mescolate, non si può forse nemmeno più parlare di differenza tra cinema e video. Col digitale poi naturalmente questo diventa ancora più evidente. Però questo oltre, che è nel sottotitolo, indica proprio oltre il cinema tradizionale, ammesso che esista ancora, oltre il narrativo, perché questi corti, quasi tutti corti, ma ci sono anche lavori più impegnativi e più lunghi, vanno un po' oltre l'idea del genere cinematografico, per cui abbiamo sì l'animazione, ma magari coniugata col documentario, abbiamo il ritratto, abbiamo il diario, abbiamo il lavoro musicale, abbiamo dei corti che magari parlano anche di grandi temi sociali o di grandi temi storici, ma sempre cercando un'innovazione di linguaggi. Quindi nella selezione che noi facciamo a livello internazionale ogni anno, cerchiamo questi lavori che vanno oltre un'idea che noi possiamo avere del cinema o del video o della televisione, insomma vanno un pochino oltre. I lavori da più o meno da quanti paesi provengono e da quali paesi, quali aree geografiche? Sì, provengono. Quest'anno in particolare abbiamo un focus sugli Stati Uniti, perché siamo all'interno dell'autunno americano qui a Milano, e quindi proponiamo anche in omaggio ai 50 anni della videoarte che cadono quest'anno, tutta una serie di lavori di classici, da Bill Viola anche a Pike, su cui ci sarà proprio stasera un incontro, ma poi vengono dai paesi più diversi, quindi abbiamo dall'Australia al Giappone, alla Francia, molti, Gran Bretagna, Svizzera, dipende un po' dagli anni, anche i cinesi, l'Oriente comincia. Insomma, abbiamo dei lavori che vengono dalla Cina e poi naturalmente, dicevo, da tutta Europa, ma insomma facciamo scoperte talvolta dall'Africa, dipende un po' dagli anni, però diciamo che è un panorama abbastanza rappresentativo di quello che viene fatto di meglio, secondo noi, oggi a livello internazionale in questo campo. Senti, rispetto all'incontro tra l'arte e l'immagine, quale ti sembra l'ambito più in fermento rispetto a questo al momento, da quello che hai potuto vedere? L'arte nel senso di arte figurativa? L'arte figuratore, arte sì, l'incontro arte e immagine, insomma. Ma ci sono, devo dire, anche le produzioni dei musei che sono molto interessanti, che talvolta sono veramente ricche di sorprese, anche proprio innovative. Ad esempio Gaumnitz, che è un autore francese che presentiamo quest'anno, in questo momento sta tenendo una lezione all'OIED, ma presenterà i suoi lavori oggi, da domani, sabato, eccetera. È un autore che fa cose anche di arte, ha appena finito un lavoro su Braque e poi però fa anche documentari con un grosso apporto figurativo, quindi le cose più interessanti sono quelle che mescolano varie tendenze, varie discipline, vari generi, secondo noi. E ad esempio l'animazione, il disegno, ma i richiami anche all'arte figurativa sono molto, molto interessanti da questo punto di vista. Noi a Invideo domani presentiamo un lavoro molto divertente, L'arte attraverso una mela, di Federico Monzani, che sarà presente. È un lavoro brevissimo in cui attraverso la figura della mela viene proprio raccontata l'arte contemporanea in maniera delicatamente ironica. Mm-hmm. Però poi ripeto, ci sono anche lavori più impegnativi che si avvalgono moltissimo del patrimonio figurativo, sia del passato che di quello attuale. Sandra, rispetto ai lavori che vi sono arrivati e che proporrete, ci sono delle tematiche ricorrenti? Allora, noi quest'anno abbiamo intitolato l'edizione Segnali luminosi, perché ci sembra che ci siano dei segnali appunto di luminosità pur attraverso questa crisi, quindi una dimensione anche di gioco, di leggerezza, di sogno, nel senso proprio positivo, quindi non l'incubo, ma proprio il sogno giocoso e gioioso. Poi ci sono delle tematiche anche impegnative quest'anno, ad esempio c'è questo documentario di Gaumnitz che è su un episodio di resistenza individuale quasi al nazismo, che lui racconta con materiali d'archivio e con animazioni. E poi c'è anche il libro dei morti di Alain Escal, che è uno dei più grandi autori di animazione, di grafica anche al computer, che c'è ora a livello internazionale, che è un affresco veramente imponente, livido, impegnativo sugli olocausti novecenteschi europei, quindi sono anche tematiche insomma che hanno un certo impatto sociale, però raccontate in una maniera che non è quella classica, no? Della voce fuori sì. campo, dell'intervista, quindi tentativi di narrazione diversa. Sandra, i luoghi e poi la strutturazione indicativamente delle giornate, di una giornata tipo del festival. Allora, una giornata tipo, diciamo, da domani, stasera è allo spazio Oberdan dalle 9 in poi. E poi è sempre allo spazio Oberdan tutti i pomeriggi dalle 3:30 in poi e la sera. Ci sono stati degli eventi anche in altri luoghi e ci saranno in altri luoghi, oggi questa lezione allo IED e anche lunedì mattina allo IED ci sarà una lezione di Giacomo Ravesi sulla dimensione sperimentale nella musica, nella videomusica italiana recente. E poi ieri c'è stata anche la fabbrica del vapore, la distruzione dei televisori, una specie di happening che insomma allo stile del movimento Fluxus con Giacomo Verde e gli spettatori che hanno fatto questa distruzione simbolica e liberatoria di apparecchi televisivi. Quindi fabbrica del vapore, IED, spazio Oberdan, praticamente per essere semplice, insomma, tutti i pomeriggi e tutte le sere da questa sera, non il pomeriggio, stasera, da stasera tutti i pomeriggi fino a domenica sera allo spazio Oberdan e lunedì mattina la lezione di Ravesi allo IED. Bene. Ci dai a questo punto le indicazioni anche per la programmazione in rete, un sito internet di riferimento? Sì. Il sito è www.mostrainvideo.com. Lo spazio Oberdan è insomma centralissimo, quindi si raggiunge credo molto molto facilmente. Sono giorni di festa, speriamo che sia l'occasione per partecipare numerosi. Bene, allora ti ringrazio e a risentirci presto. Grazie a voi, ciao. Ciao Sandra. Sandra Lischi, direttrice della 23ª edizione di Invideo, Video e Cinema Oltre a Milano, da ieri 30 ottobre fino al 4 novembre. Bene, allora è tutto per Visionari, si torna giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15, le informazioni sia sul sito internet della radio, ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, che sulla pagina Facebook di Visionari e poi l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni visionari@ondarossa.info.